A bordo campo di Dario Ricci. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, così diceva Madiba, Nelson Mandela, e davvero anche attraverso lo sport Mandela ha cambiato il mondo e prima ancora il Sudafrica, scegliendo lo sport sudafricano per eccellenza, no? Il rugby, no? Con quella celeberrima edizione dei mondiali che il Sudafrica vinse contro la Nuova Zelanda in casa, con Madiba in tribuna allo stadio con la maglietta degli Springboks. Pagina leggendaria della storia e che riviviamo alla luce delle ultime novità che arrivano dal Sudafrica e dal rugby sudafricano. Perché? Perché la commissione sportiva della Federrugby sudafricana ha affrontato di petto il tema delle quote nere. Come sapete, chiaramente è un tema da sempre dibattuto nello sport sudafricano, la presenza dei giocatori di colore in qualsiasi rappresentativa nazionale. Ebbene, su sollecitazione di un altro gigante del Sudafrica, Desmond Tutu, il vescovo premio Nobel per la pace, è arrivata questa decisione, il fatto che ci saranno delle quote garantite per i giocatori di colore nella nazionale sudafricana di rugby. Cambia lo scenario anche tecnico di quella che è una delle nazionali più forti al mondo. Allora, ne parliamo oggi, parliamo di rugby, e quindi al mio fianco, già avete probabilmente immaginato chi c'è, ben trovato Giacomo Bagnasco. Buongiorno, buongiorno a tutti. E in collegamento da Pretoria il nostro Lorenzo Simoncelli, ben ritrovato Lorenzo. Ciao Dario, un saluto a tutti da Pretoria. Allora Lorenzo, la commissione sportiva ha deciso che verrà applicato lo Strategic Transformation Plan, cioè per i mondiali di rugby del prossimo anno in Inghilterra il Sudafrica dovrà mettere in campo almeno 5 giocatori di colore su 15, e nell'edizione del 2019 i neri titolari dovranno essere come minimo la metà, il 60% di questi saranno Black African, il resto meticci. Tra l'altro un tema che andremo a toccare con mano fra poche settimane, no Giacomo, perché il 22 novembre il Sudafrica lo affrontiamo proprio noi azzurri nei test match, no? A Padova, certo. Quindi insomma vedremo un po' anche quali saranno i riflessi tecnici, no, di questa decisione. Però Lorenzo, da te vogliamo sapere qual è il dibattito che si sta sviluppando nel paese e quali sono le reazioni sul campo, perché il tema è scottante, altrimenti un gigante come Tutu non avrebbe preso la parola a proposito, no? Sì, assolutamente sì, il tema è scottante, lo è sempre stato in Sudafrica, diciamo, negli ultimi 20 anni, cioè da quando appunto gli Springbok vinsero il campionato del mondo nel 95, e più volte si è ripresentato il tema. L'ultima volta che si era ripresentato fortemente era nel 2007, quando l'allora presidente della Commissione per lo Sport, Butana Kompela, addirittura aveva minacciato di confiscare i passaporti degli Springbok, appunto come è chiamata la nazionale sudafricana di rugby, appunto tra i 30 convocati per quel mondiale che poi appunto il Sudafrica vinse, non c'erano almeno 6 giocatori Black African, appunto neri sudafricani. Quindi un tema molto scottante che ritorna appunto nell'attualità in questi giorni, soprattutto dopo diciamo le recenti apparizioni non eccellenti degli Springbok, che appunto arrivano da sconfitte pesanti contro l'Australia e la Nuova Zelanda. Ora questa riforma, che appunto radicale sarebbe appunto nel rugby sudafricano già per l'anno prossimo, per il prossimo mondiale 2015, e ancora più per il 2019, quando appunto si dovrebbe raggiungere questa quota del 50% di neri all'interno degli Springboks, bisogna vedere se effettivamente si realizzerà, perché appunto ogni volta ci sono poi i problemi da affrontare, non solo appunto con il Ministero dello Sport, il Comitato Olimpico Locale, ma quelle che sono appunto poi le realtà concrete dello scenario del rugby sudafricano, in concreto, certo, sponsor e poteri forti che appunto sono quelli che poi di fatto gestiscono il grandissimo del rugby sudafricano. Senti, ti chiedo anche qual è stata la reazione del mondo politico, perché immagino che ci saranno tuffati a pesce su questo argomento, no? Ognuno per avere uno spicchio di visibilità. Diciamo che quello che sta succedendo in Sudafrica ormai da diversi anni, non so, diciamo che il rugby rappresenta perfettamente lo specchio della società sudafricana, dove si cerca in qualche modo appunto di avere un po' una rivincita in questi ultimi anni, soprattutto da parte della classe nera. Il vero problema è che non so quanto effettivamente imporre delle quote, come appunto quella la decisione che c'è appunto in queste ultime settimane, possa effettivamente poi dare dei risultati concreti per i giocatori neri di rugby. Cioè, forse appunto il dibattito centrale è che bisognerebbe appunto rafforzare tutto quello che è il movimento giovanile, ad esempio del rugby, aumentare ad esempio gli investimenti da parte appunto dei privati nel rugby di colore, soprattutto nella culla del rugby di colore che è a Port Elizabeth, nell'Easter Cape, proprio la terra, la provincia da cui veniva Nelson Mandela, che tra l'altro è proprio una delle più povere appunto in Sudafrica. Quindi forse, certo, quindi ci sarebbe bisogno di un lavoro su più a lungo termine rispetto che a decisioni politiche calate dall'alto. Ecco, Lorenzo ci ricordava, Giacomo, che chiaramente è un dibattito infiammato anche dai risultati non eccelsi, o meglio forse anche dalle prestazioni non eccelse degli ultimissimi Springboks, che qualche campione di colore, e che campioni, faccio riferimento a Brian Abana, pur ce l'hanno. Cioè, vogliamo dire che se gli Springboks vincessero magari quattro nazioni, questo problema neanche si porrebbe? Guarda, nel 2007 effettivamente, come ricordava Lorenzo, il problema si era posto, e poi gli Springboks hanno vinto la Coppa del Mondo, quindi nessuno ha più accusato l'allenatore, che neanche a farlo apposta, di cognome si chiamava White. Ah, ecco, Jay, quindi White. Insomma, ci siamo capiti. White venne sostituito da Pieter de Villiers, che è stato il primo colore ad allenare il Sudafrica, con risultati tutto sommato discreti, il quale de Villiers a sua volta, dobbiamo dire la verità, si guardò bene dall'applicare le quote nere. Anche perché, Giacomo, il rugby è lo sport bianco per antonomasia, i neri prediligono il soccer, il calcio, e quindi ecco, dal punto di vista tecnico ci sono 5 o 8 o 15 giocatori di colore che sono all'altezza di una nazionale che è tra le prime tre al mondo? Guarda, io direi di no, così come non, probabilmente non ci sarebbe un'equivalente proporzione di giocatori bianchi che giocano a calcio, quindi. Non so se è il caso di introdurre le quote bianche. Se lo chiede anche i movimenti di tutela degli Afrikaner, no? Quindi è un tema che in realtà ha un peso specifico. Il Sudafrica del rugby è tuttora secondo nel ranking mondiale, è una squadra che ha perso, sì, però lottando fino alla fine sia in Nuova Zelanda sia in Australia, quindi anche in questo quattro nazioni non sta facendo grandissime cose, però ha già vinto 2 partite su 4. Probabilmente si parla tanto di rugby perché, come diceva Lorenzo, è veramente lo specchio della società sudafricana. Però io ho dato un'occhiata ai siti di altre federazioni sportive sudafricane. Nella squadra di cricket, parliamo di sport popolarissimo in Sudafrica, credo che ci sia una proporzione simile a quella che c'è nel rugby, ci sarà un 80% di bianchi. Tutti i migliori giocatori del ranking maschile e femminile del tennis, giocatori e giocatrici, sono bianchi. I migliori golfisti sono tutti bianchi, nel nuoto e nella pallanuoto si vedono quasi esclusivamente bianchi. Allora, che cosa voglio dire? Che probabilmente di rugby si parla perché è lo sport che nel Sudafrica emerge di più, ma il problema riguarda quasi tutto lo sport sudafricano, forse non l'atletica, dove c'è ad esempio il Caster Semenya, che ha vinto gli 800 metri, eccetera, eccetera, ma è tutto lo sport, e quindi è tutta la società che dovrebbe fare uno sforzo, probabilmente per portare ovunque queste quote nere, ma sulla base di valori tecnici. Quindi bisognerebbe dall'inizio dare la possibilità anche ai ragazzi neri che appartengono alle classi meno agiate di fare sport negli impianti adeguati, con tecnici adeguati a tutti i livelli, e di cominciare dall'inizio a farlo con la prospettiva di poter diventare dei campioni se c'è il talento. Direi, Lorenzo, tornando a te per chiudere da Pretoria, che Giacomo Bagnasco ha toccato il fulcro di questa nostra breve chiacchierata, è che il tema quote in un contesto come quello sudafricano e non solo è la cartina di tornasole di quella che è poi una società che poi nei fatti riesce ancora con grandi difficoltà ad essere inclusiva per tutti e a offrire quantomeno le stesse potenziali opportunità a tutti, no? Sì, assolutamente sì. Il punto è proprio, come diceva Giacomo, è da legare allo sviluppo dei nuovi talenti. In Sudafrica la maggior parte dei giocatori di rugby escono ancora dalle scuole e ad esempio appunto il tema dell'educazione è un tema molto delicato e molto complicato in Sudafrica, perché le ultime statistiche dicono che nonostante appunto ormai il Sudafrica sia una grande potenza economica mondiale, faccia parte dei BRICS e tutto, il livello di istruzione sia uno dei peggiori al mondo e quindi al livello di istruzione si associa anche il livello delle strutture e quindi ad esempio la maggior parte dei ragazzi, dei giovani neri sudafricani vanno appunto in scuole dove di fatto mancano completamente le strutture, non solo rugbistiche ma mancano proprio le aule. Quindi tutto questo fa capire come appunto sia un ulteriore ostacolo allo sviluppo poi della disciplina rugbistica. Oppure un altro semplice esempio che appunto va considerato, ad esempio tutto il tema legato alla nutrizione. Naturalmente il rugby è un certo gioco che necessita un livello proteico molto alto e abbiamo appunto ancora in Sudafrica di grossissimi problemi di alimentazione. Quindi tutti questi sono piccoli elementi ma importanti appunto legati alla società che poi appunto hanno un ritorno sullo sviluppo effettivo dei giovani e dei nuovi talenti che possono poi un giorno diventare futuri Springbok. Eh sì, prezioso assist questo che ci ha lanciato da Pretoria Lorenzo Simoncelli, perché magari sarà anche un tema che possiamo proporre all'Expo, no? Mi pare che si parlerà di cibo fra qualche mese qui a Milano e sarebbe interessante che si affrontassero anche i temi che coinvolgono la qualità della vita dell'umanità. Sicuramente sarà così. Intanto grazie a Lorenzo Simoncelli da Pretoria, lo ritroveremo presto anche a bordo campo, e grazie a Giacomo Bagnasco. Giacomo, una battuta velocissima, al di là delle quote, mi sa che il 22 novembre Padova ci suonano come al solito. Magari cominceranno a fare qualche esperimento perché con noi si sentono tranquilli. Ecco, quindi insomma la maglietta è sempre quella degli Springboks, quindi difficilmente riusciremo a fare il colpaccio. Staremo a vedere. Grazie Giacomo, a presto, però torna presto qui a bordo campo. Ben volentieri. A bordo campo. Ha attraversato deserti ed oceani, ma la sua voglia d'avventura e direi soprattutto la sua voglia di libertà non sembra avere confini, o almeno non sul pianeta che continua ad esplorare in lungo e in largo. Beh, amici di A Bordo Campo, oggi abbiamo un ospite davvero eccezionale con cui parliamo di avventura, di libertà e anche di un'altra grande impresa che ormai si avvicina sempre di più e che davvero stimola curiosità e interesse. E allora, ben ritrovato a Radio 24 e a Bordo Campo, Alex Bellini. Buongiorno a tutti, buongiorno Dario. Non sto qua a ricordare tutta la tua biografia, Alex, ma insomma un paio d'oceani a Rimi l'hai attraversati, no, se non sbaglio? Sì, esattamente due, anche se per realizzare queste due grosse imprese ho impiegato diversi anni insomma, sarebbero stati sufficienti per attraversarne quattro di oceani, però alla fine è andata così. Beh, diciamo che te lo sei goduto il viaggio, ecco, non c'era fretta, direi che la fretta anzi forse è nemica proprio delle tue imprese, no? Sì, amo molto il concetto della lentezza e il concetto della lontananza anche in senso temporale. Infatti almeno due delle peculiarità che contraddistinguono le mie avventure sono proprio questi concetti qua, della lentezza e della lontananza. Lontananza e lentezza sono poi gli ingredienti essenziali per queste avventure che vanno al di là dell'avventura in sé per sé, ma diventano poi strumento per conoscersi, strumento per autoesplorarsi e quindi restituisco a me stesso un valore più grosso della stessa avventura. Ecco, il viaggio volto verso la conoscenza del sé più profondo. Ecco, direi che la prossima impresa che stai preparando, la prossima sfida, il prossimo viaggio, chiamiamolo così, perché poi gli obiettivi e le mete sono davvero talmente intimi e personali che non possono essere assimilati a un record sportivo. Direi che riunisce in sé queste due caratteristiche, lontananza e lentezza, perché la prossima sfida che presenterai tra l'altro a Milano il prossimo 29 settembre in piazza Gaia Aulentina nell'ambito del Festival delle Lettere, lontano ti porterà, perché se non sbaglio partirai dalla Groenlandia, no? Esatto, dalla Groenlandia. E poi la lentezza giocherà il suo ruolo, perché spiegaci un po' cosa hai intenzione di fare. L'avventura che mi sto accingendo a lanciare, a presentare al pubblico il 29 settembre, consisterà nel sopravvivere su un iceberg, questo pezzo di ghiaccio alla deriva, nel tentativo di raccontare l'ultima fase di questo pezzo di ghiaccio che risale a migliaia di anni, tanto è vecchio il ghiaccio che si è andato a sommare nel tempo. Sarà un'avventura solitaria, sarà un'avventura lenta, in cui verrà messa a dura prova la mia capacità di gestire le situazioni che non posso controllare. Ci saranno situazioni di grande noia, quindi anche la gestione della mancanza di movimento e soprattutto la sensazione, e questa è forse la cosa che mi piacerà poi raccontare di più alle persone che mi vorranno seguire, la sensazione di gestire le cose improbabili, le cose che non possiamo prevedere, che tanto fanno paura all'uomo moderno, quindi fa di tutto nella sua vita, se ci fai caso, per controllare, per crearsi delle situazioni che può prevedere. Certo, cioè, gestibili, no? Per un uomo gestire quei momenti lì, e quindi l'avventura sarà proprio bella per questo. C'è una ricerca del momento ultimo di tutte le cose, che poi al tempo stesso è anche il momento primo, no? Quando quel ghiaccio ridiventa acqua e quindi perde la propria natura, ma diventa elemento primo che dà senso alla vita, no? Esattamente, affronti il discorso sicuramente molto, molto attuale, che a noi parlo come io e il mio team che lavora a questo progetto, per noi è molto centrale, ossia la circolarità della natura, che mal si adatta al senso lineare della nostra vita. Quindi fai caso per esempio alla produzione di beni, no? Segue un processo lineare, l'estrazione, la produzione, lo smaltimento. Invece credo che sia questo il momento, siamo maturi abbastanza come esseri viventi per trovare nuovamente, riscoprire un avvicinamento con la natura, un riallineamento dei cicli circolari della natura con il nostro atteggiamento invece lineare nella produzione. Quindi vuole essere anche non un campanello, però vuole raccontare anche questa storia di come l'essere umano può sopravvivere su un pianeta se solo si rende conto che solo riconnettendosi alla natura può sopravvivere, può anche gestire quel cambiamento a cui tutti quanti siamo chiamati oggi. Ma secondo te noi occidentali, perché poi mi sembra che sia in particolare al nostro mondo che tu voglia inviare questo messaggio, siamo abbastanza maturi da essere anche capaci di perdere tempo? Questo forse ci vorrà ancora qualche migliaio d'anni, perché talvolta ci rendiamo conto che il tempo è proprio quella risorsa finita, quella risorsa che sempre più spesso diventa preziosa, e quando non ne abbiamo più ci rammarichiamo per non avere più quelle occasioni. Quindi così come il ghiaccio non è per sempre, neanche la nostra vita è per sempre. E quindi tanto vale fare oggi, occuparci di fare oggi le cose che tanto vogliamo fare, non aspettare magari le occasioni future, che magari non verranno mai più. Ecco che l'avventura di stare alla deriva su un iceberg può avere più declinazioni. Ne abbiamo affrontate almeno tre, e forse l'ultima, quella più intima, quella nostra personale, è quella, la nostra tendenza di procrastinare, no? Di posticipare la nostra felicità a eventi futuri. Invece, ricordandoci che la vita non è per sempre, proprio come il ghiaccio di un iceberg, dovremmo riprendere a fare oggi quello che amiamo fare oggi, così come io vivrò un'avventura senza posticipare al futuro. E beh, come sentite, si intersecano stati d'animo, sensazioni, esperienze, ma anche stati temporali diversi, no? In queste avventure che Alex compie anche in nostra vece. Beh, Alex, dacci anche qualche dettaglio tecnico. Quando partirai, con quale attrezzatura? Perché di fatto come si affronta una sfida che poi è anche così estrema? Questa è la parte divertente, cercare di realizzare qualcosa che sembra impossibile agli occhi così di primo acchito. Vivrò, per raccontarvi di due cose tecniche, vivrò all'interno di un modulo di sopravvivenza, un modulo che viene utilizzato nelle piattaforme petrolifere per eventualmente soccorrere gli operatori che si trovano sulle piattaforme petrolifere, magari che non so, vanno a fuoco piuttosto che c'è un incidente, quindi vengono fatti evacuare a bordo di queste cellule. Vivrò per un tempo massimo di 12 mesi, questo non vuol dire che vivrò per 12 mesi, ma sono disposto a rimanere su un iceberg per 12 mesi. Mi ciberò di prodotti liofilizzati, comuni prodotti che ho utilizzato anche negli anni passati, che avranno un sistema di conservazione diverso. E poi sarò equipaggiato con tecnologia che mi permetterà di comunicare a terra, di condividere abbastanza quotidianamente questa avventura, perché vuole essere un'avventura condivisa. Voglio poter fare parlare le persone, mi piacerebbe poterle ispirare, mi piacerebbe poterle mettere in una condizione di poter parlare anche di quello che ormai è una cosa che riguarda tutti, quindi il clima, l'ambiente, la sostenibilità. Ecco, ci fissiamo degli obiettivi molto ambiziosi, ma credo che questo progetto abbia le potenzialità per far tutto questo. Il naufragarmi è dolce in questo mare, mi viene di salutarti così, Alex, rilanciandoti quel messaggio che quel ragazzo qualche tempo fa in quel piccolo borgo marchigiano lanciò in modo universale e sublime, in quel rapporto così ricco, complesso, sofferto che aveva egli stesso avviato con la natura. Alex Bellini, ho idea che andremo a ritrovarci durante quest'anno straordinario, intenso e immenso e infinito che vivrai su quest'iceberg anche qui a bordo campo. Intanto grazie per il piacere e l'onore che ci hai fatto oggi di essere stato nostro ospite. Grazie, grazie a voi. Vi ricordo l'appuntamento, non abbiamo parlato nello specifico, ma sarà verso la metà dell'anno prossimo e quindi speriamo nel frattempo di risentirci per degli altri aggiornamenti. Grazie di nuovo. Anche per questo appuntamento di A Bordo Campo è tutto, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito radio24.it, da cui potete anche scaricare il podcast e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Ora spazio a tutti i convocati weekend con Giovanni Capuano. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.